Enjoy canale 10 27 075, Alfa 1 questo apparto, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Attenzione canale 10 27 075, Alfa 1 questo apparto, operatore Riccardo che vi sta chiamando in frequenza. Canale 10. Avanti! Ah no, è quello show di ieri, no scherzo. Attenzione Riccardo, ci sono. Riccardo, sono qua, prove tecniche. Attenzione canale 10, c'è qualcuno, cambio. Riccardo, così. Attenzione canale 10, cambio. Riccardo, ci si. Vabbè. Attenzione, attenzione Nicola. Attenzione, attenzione, mi ascoltate, sono Nicola. Tattarino di tasco, la tattarina di... Chi è? Eia! Ce l'ha portata, Santiago 5 e la radio è buona. Come si chiama? C'è un telefono scarico, tappeto, non posso cercare, dopo me lo dici. Poi cosa ti è arrivato? Ti è arrivato anche altro oltre quello. Base non te ne sono arrivati. Guarda che stanno dando un base, se ti interessa, 110 euro su Amico CB, mi pare che sia. 110 euro, è un Inuit bellissimo, bello. E ha detto che adesso per l'ultima volta lo dice e poi lo toglie fuori se lo tiene lui. E ho capito, non so da quanto parta perché ti ha messo la portata per bastare. Spostati perché ti già supererà il tuo segnale, ti schiaccio. Allora prova a rimettermi la portante. E allora il manca fazzuffo, avanti. Riccardo, avanti. Va bene, sono tornato qui adesso, tu sai. Voglio farci diventare una polpetta, non l'ho detto. Adesso ha anche aumentato di segnale. Adesso sto usando il K, c'ha 20 watt questo coso. Ho capito, ha aumentato anche la portante. Ah, ho aumentato la portante. Qua arrivano del 20. Ehi, vabbè, lascialo fare. Niente. Oh, non so di cosa mi piace di quella radio, è che ha il Roger Mip instabile, che lo puoi anche togliere. Ah, K. Fa una cosa, Giacomino, va. Poi a Giacomino, non ricapito. Vai 10 kHz, puoi andare, sì. Mi cerchi sull'11 alfa. Sì, aggiungo, vado a 27,95. Non lo dire. E tanto non ce lo fa, come fa? Quello è un anetto. Avanti su 10. Avvibito sì. Avvibito sì. Attento Giacomino. Avanti Luca. Maledetto. E che sorpresa, non ti riconosci? Via. Aspetta che quando... che dovevo venire... Riccardino qua. Se non mi ricordo mai il nome, lo chiamo Giacomino io. Sono qui! E tu che è Giacomino? Che è Eugenio, Eugenio, tu sì. Eugenio, ci sei? Ma era Eugenio quello lì. Ciao Luca comunque. Ah, sono qui, tu l'hai detto. Ciao Ricca. No, io non ho detto niente, sai con Luca, boh. Sono qui! Chi è che l'ha detto? Mi sembra più un genio. Attenti Eugenio, esci fuori. Vabbè, riprendi Luca. Come sta? Come sta Luca? Ma cosa ha mangiato? Un paio di crocchette, dai, no. Non lo so se mi devo domani la visita, cosa mi dice? Ci sarà l'integratore come gli altri a me. Anche il mio non mangiava, quando ci aveva, ero disperato, stavo anche male io, figurati. Non mangiava più quando c'aveva la gastroenterite. Nulla, niente, beveva un bel basta. Luna, vabbè, beve comunque. Non si è mangiato e non mangiava ma con vista voluto. Che di solito a lei piacciono. Un'oliva dalla pizza mi ha dato. A lei gli piace, cioè a me sono un bel po' a mangiarsela, eh. Giocava più che mangiare. Cioè la prendeva, la buttava, la mollava, no? Poi dammi la torre, la bigliava. Qualche crocchetta così, ma niente di più. Stiamo piano, già si riprende. Certo, l'ho detto, vieni, prenderti gli integratori a casa, li dai gli integratori ed è roba da mangiare, tutta pressata in una pastiglia, tutto lì. E ci sono tutte le vitamine, tutte le proteine, tutto quello che gli serve. Bisogna messi in magna. E li devi mettere in gola, li devi aprire la bocca e buttarli in gola, capito? Adesso vediamo domani, tanto appuntamento alle 9:30. Piano piano mi cammino a piedi. Capaga. E lei a camminare? Adesso non ce la fa, prende in braccio. Noia, la vita. Avanti. Come ti chiami? Riccardino. Ah, ce la facciamo. Mi sa che devi scrivere un cartello, un bigliettino anche davanti al baracchino e ti attacchi il mio nome. Perché i tuoi genitori ti hanno messo un nome così difficile? Perché ci sono nomi solo comuni, Alessandro, oppure, cosa ne so, Mario Macaluz. Ma di Sciascia li sei, Riccardi? Certo che sì. Sciascia lì, in Ciabisi. Sono di Sassari e ho abitato solo un anno a Sassari e poi mi sono trasferito. Ma dove sei? Casa tua? Casa tua, sì, su. Sì, sono a casa. Santiago 7 mi stai arrivando. 7? Che sta mi arriva 9:30? Intanto ho miato con il noise blanker perché ho meno rumori di fondo. Adesso. Luca, portante, ti avevo aperto. Luca! Se vuoi ti faccio un piacere io, dai, vengo a prenderti domani, la carichiamo in macchina allora e andiamo in macchina. No, intanto scendo via Marghinotti, poi vado in via Sorso, taglio lì, arrivo, non dico in un attimo, ma già arrivo, dai, no, non ti preoccupare già, tranquillo. Se no, se il tempo è buono prendo il motorino, la metto sulla pedana e già rimane, dai, no, non ti preoccupare. Perché c'è anche la gabbia dietro, se vuoi, non c'è problema. No, già mi organizzo così, già, capito. Non so quanto mi fa aspettare, no, non ti preoccupare, già. Se piove è un casino, è quello, Se piove è un casino. Se non piove faccio una bella passeggiata. E lei che già cammina però non ha gana, non è più come prima che veniva. Tranquillamente. Vediamo, ora. Mi prendete un attimo e vado a fare merenda. Ma insomma, analisi non gliene ha fatto, analisi del sangue? No, niente. Cazzo, c'è questa cosa che non fa le analisi, boh. Anche lui ha fatto il trajecto, così ha fatto con Tyson, adesso tra poco vuole operare. No, questo qua, sono stato a Tiana, via Caprera, dicono che è molto bravo. E non lo devo operare a Tyson. Ha una ciste prostatica. Ah, ho visto, cazzo. Capito. Ah, questa ciste prostatica. No, quello lì è quando è calore che gli succede, te l'ho fatto vedere come gli si fa. Fare un palloncino. Allora, mi sono spaventato, la prima volta che l'ho visto mi sono spaventato. Quanto tempo ha? Tyson c'ha 5 anni. Però dicono che i cani di razza sono più soggetti ad amarsi, dicono, poi non lo so. Invece un meticcio no. Poi vabbè, dai, già arrivo subito e mangio qualcosa. mattina e mettici letto da mangiare, lo sciamano, lo si... c'era Leone, il cane di questa ricovero, lo chiamavano Leone per pigliarli in giro perché era bassottino, in campagna, di quei bastardi. Uno che era un bel bravo a coniglio, ogni tanto gli portava un coniglio, se lo acchiappava glielo portava fino a casa. E poi ha vissuto 21 anni e mangiava avanzi che aveva l'olore in campagna, gli faceva un pastone con pane bagnato nell'acqua, gli metteva pasta asciutta, tutta la roba che avanzava, e poi gli faceva un pastone, le uova che magari le galline facendole ci filavano e cose non le poteva vendere, allora gliele apriva, gliele metteva in vento, un po' di formaggio grattugiato e mangiavano questo pastone così. Ho capito, riprende Ricca. Ehi, riprendo io, va bene. Non so, stavo ascoltando questa storia del cane, non so cosa dire, l'ho fatto vedere a mamma e non mi ricordo cosa mi ha detto di questo problema, se lo faccio sapere dopo o se lo sai già. Quello di Lucca, non è un prolasso, dicono che è un prolasso. Boh, non mi ricordo cosa mi ha detto. Prolasso vaginale. Sciammano, mamma mia, c'è peso un poverino, cavolo, ogni volta che è di bere l'emorragia si comincia a perdere sangue, uia. Ma da dove? Dal sedere? O da dove? Pisellino. Ah, ho capito. Non lo so. Peppito, il mio cane, il bassotto, gli stava sempre uscendo sangue, come lo toccavi gli faceva male perché aveva i calcoli. No, lui già fatto l'ecografia. C'ha praticamente una ciste prostatica, la prostata, che dovrebbe, se continua, non la devo operare, capito? Ogni 6 mesi gli faccio la cura e a volte lo devo anche sterilizzare, gli faccio una sterilizzazione chimica, però quanto dura una settimana, intanto per bloccargli il calore, poi gli devo dare l'antibiotico per 20 giorni. E ho capito. Maria. Cavolo, nemmeno la fortuna, ci avevo il gatto, non si è mai preso un raffreddore, ma nulla, a 19 anni è stato sempre sanissimo. Ma non lo so, dipende, per dirti, perché i miei bassotti, boh, saresti il cura mamma, però non hanno mai avuto niente, neanche i pastori australiani, e anche i bulldog. Ma che bulldog ci avete? Bulldog inglesi? Sì, i francesi sono un po' così, inglesi. Ah, ne avete? Avevamo l'allevamento, poche ne sfornavamo, 12, tutte le cucciolate che faceva ne uscivano 12, pensa che la quotazione che li vendevamo era 1.500 a cucciolo. È quello lì il valore, così costano, anche c'è gente che va addirittura a Furia a comprare, va all'estero a comprare. Lo so, e noi siamo andati, come dire, fuori Italia perché avevamo preso un campione, un Red si chiamava, e è morto anche da poco, cos'è, 5 mesi. Era grande? Sì, era grande, 12 anni, già campato senza neanche un problema. Quelli lì sono cani belli furti, sembrano palestrati. Sono proprio belli. Sai chi ce l'ha così? Sì, che lo so, torre di controllo. Ehia, noi c'è fuori Italia, di quelli russi. Filippo si chiama, fa ridere il nome, Filippo. L'ho visto, si assomiglia molto al mio. Noi ne avevamo praticamente ne avevamo 5, un maschio e 4 femmine, quindi immaginati quante ne sfornava. E poi, cioè, abbiamo avuto un sacco di animali prima. Babu si era fatto l'allevamento anche di cavalli, ne avevamo 24 cavalli. Poi li ha tutti venduti. Venduti, poi sono stati sotterrati alcuni, la maggior parte sono stati venduti, però alcuni ti affezioni. Lo so. Ma che tuo padre invece ne ha molto amore per gli animali. Già lo credo, scusa, ho molato i pittici. Sì, gli piacciono molto. Io sono lo stesso, se avessi avuto un pezzo di terra ne avrei avuto tanti tipi di animali, avrei fatto una grande voliera e avrei messo gli uccelli. Poi mi avrei allevato anche, per dire, galline e cose così, ma solo per casa, per prendermi le uova, non per ammazzarle, perché ammazzarle non mi piace. Io, per me, gli animali devono vivere la loro vita, non devono essere soppressi per mangiarseli l'uomo. Già lo so, io non posso vedere quando ho detto mamma per cucinarlo apre il maialetto, poveraccio, piccolo, mamma mia. Ecco, di pronto non c'hanno fortuna, nascono per morire, sia maialetti che gli agnelli. Nascono per morire quegli animali, non c'hanno vita più. Già lo so. Adesso stiamo andando via i cricetti e anche quelli ne sporna di cuccioli e li stiamo regalando, non c'è nessuno che li vuole. Che cuccioli? Il cucciolo di cricetto. Vai, non so dove vai, vai nella sala di Alghero da Quazzo e lo chiedi se li vuole a Sandro e li ripeti, assai ci vuole. Ah, lì, e quanto te li paga? Io penso che li stavo regalando. Non lo so, cricetti, a me le capie mi davano la fesseria 10 euro, poi io non sai cosa ho fatto, per 10 euro non mi conveniva, l'ho messo su subito a 20 euro, tutte vendute, quelle che facevano le vendevo sempre. Mi chiamavano anche a vedere se ne avevo quando ancora non avevano i cuccioli, e dicevo io aspetta perché li deve fare tra poco, però ancora non sono nato. Ehi, ammazza quanti ne ha sommato, sono 5 adesso, ma sono bellini proprio, sono piccoli, sono la metà di un pollice, ancora più piccoli. Non so, li ho avuti, sono rosa, li ho avuti i cricetti, solo che avevo la madre che era snaturata, si mangiava le teste, non so se te lo vedo, si mangiava le teste, trovava il corvicino senza testa, tutti decapitati. No, meno male questi sono bravi, almeno non gliene hanno tagliato testa, sono 5 e sanno ancora tutti il capo a posto. E morsicano? I genitori sì, morsicano, però i figli no. Invece le cavie non morsicano, le cavie sono ben belle. Poi tu che sei in campagna potresti allevarti le due, di quelle pelose. Praticamente sono molto belle, non morsicano, le puoi prendere in mano, dove le metti restano, sono belle mansuette, capito? E vedi, sono molto paurose, infatti nella gabbia bisogna metterti sempre una casetta di modo che loro se ne vadano dentro, perché è il loro riparo, quello lì, sono molto timide, poi alla fine fanno confidenza e ti chiamano, mi chiamavano, quando mi vedevano facevano per dare da mangiare, capito? Mi chiamavano. Lo so, mia sorella voleva i cricetti, mi ho detto, ma guarda che belle le cavie, le stanno regalando a Sassari, c'era quello che le stava regalando, erano dei batuffoli molto più belli dei cricetti, oh, non li ha voluti, ha voluto sti cricetti. No, le cavie per i bambini specialmente sono più indicate perché non mordono. Una volta solo abbiamo morsicato la cavia perché si stavano bisticciando, io mi sono messo per separarli per non farsi male, e invece quella lì deve essere stava morsicando all'altra e ha preso il dito mio, ma dolora lì. Già lo credo, mia sorella non l'ha voluto perché ha visto che secondo lei sporcano molto, ma se volevi il cricetto anche quello sporca, adesso non gli ha cambiato neanche la letteria, c'è una puzza in camera. E poi sai cosa mangiano? Ma gli piacciono molto i filocchietti selvatici, i peperoni rossi che bisogna dargli, perché contengono vitamina C e loro non la producono come noi, dai. Noi la vitamina C mangiamo arancia, mangiamo queste cose perché non la produciamo, la dobbiamo integrare ma non la produciamo. Per cui loro devono mangiare molti peperoni russi, se no si ammalano, si paralizzano le zampe di dietro, se non gli dai questa vitamina, oppure gli devi mettere il cipio, che è una medicina a gocce che si mette nell'acqua e contenente di vitamina C. Lo so, ma ne hai parlato, quindi i semi non ne mangiano neanche, hai detto? Non è che non ne mangiano, li fanno male all'apparato digerente, perché loro sono erbivori, non mangiano semi in natura. Allora cosa fanno? Per commerciare nel mangime ci buttano anche i semi, capito? Ed è sbagliato. Poi tua madre già lo saprà. Lo sa, ma mi sono sempre chiesto questo quesito. Ma i cresciuti dove vivono in natura? Ma lo sai che non lo so nemmeno io dove vivono. Ma penso che siano animali da laboratorio i cresciuti, che sono fatti da incroci, non lo so. Cioè, ho visto anche quelli che regalano i topolini, quelli bianchi, che sono una specie di cricetto, non so se è un incrocio anche quello. Eccoti Luca. Gianni è sparito, è calata la propagazione e non riesco più a collegare Gianni da New York. Sarà drumito. Comunque adesso ho visto mia madre sbucciarsi roba da mangiare. Ecco, sbucciato un pezzettino prima, la sala sta mangiando, dai, alleluia. E piano piano già si riavvita, mi sono fermato. Mi sono fermato perché mi ha mandato un messaggio mia figlia da Bologna e gli stavo rispondendo. Kappa, no, perché c'era Luca che era entrato e stava dicendo roba. Kappa, che non c'è a rispondere. Cosa ha mangiato Luca? Cosa hai detto a me o a Luca? A Lucrezia. Non risponde. Va bene. E quindi ti sto dicendo che le caghe le usano proprio, lo dice il nome, le usano per fare gli esperimenti, lo sapete? Lo so, le caghe al laboratorio infatti si chiamano. Quindi quelle che compri le salvi, se no poi le metto in laboratorio per trovare medicinali, cose del genere, povaracci. Quelle che avevo io erano belle, erano tutte pelose, ne avevo bianche marroncine, ne avevo nere, ne avevo di tutti i colori, tutte pelose. Perché ci sono a pelo corto e a pelo lungo, quelle a pelo lungo sono fantastiche. Ho capito, ma come dire, penso quasi nessun animale, molti sopravvivono in natura, tipo quelli da carne, vitelli, galline. Galline forse no, pollo, vabbè, dico cani in Cina, gatti, tutti a morire li fanno per mangiarseli. I cinesi poi fanno proprio la zia dei cani, fanno la mattanza, e sono bastardi. Mi ha detto un amico mio che praticamente, adesso Giacomino, ti mando una cosa, se ci riesco. Manda. Lucrezia! L'ho vista! Gianangelo! E no, che giù! L'ho visto! Ti piace? È bello! È uguale, è proprio preciso! L'avevo già visto dalle foto su Facebook! E a te l'ho visto, dai! Adesso ti piace? Il mio cagnolino! Sì, è bello, l'ho visto la foto in spiaggia, mi sono dimenticato anche di chiederti l'amicizia. Ah, stavi piangendo, però l'amicizia non me ne ha preso, te ne mando una bella di testa. Qua sembra Fantuzzi, vista? Sì, l'ho vista. Bello, molto bello Tyson. Sembra Fantuzzi con la lingua fuori. già l'ho visto. Sì, molto bello comunque. Luca, ma se posso, Luca, che razza è il cane? O è un metiscio? No, è uno Yorkshire. Ah, perché non l'ho visto in faccia, ho visto solo il problema. Luna è New Yorkshire. Non so se si è incrociato, ma penso di no. Penso che sia New Yorkshire pure. Ho capito, non lo so. Luca, ci sei? E mi ha un problema, che morde. Morde per che cosa? Se c'è gente che va a toccarlo quando non li conosce, li salta addosso. Invece se ti conosce, viene lui, ti fa le feste, ti salta addosso, ti fa le feste e tutto qua. Ma se non ti conosce, non fa allungare la mano che... ho capito, no, i pastori australiani non lo fanno i bassotti. I bassotti sono tirati usi. Ma i pastori australiani ne avete altri? Sono i pastori australiani. E figli non ne hanno? Sì, abbiamo tenuto una figlia che la uso per fare agility dog. Ah, lo stai facendo già fare? Sì, sto facendo fare qualche esercizio a casa, sto aspettando che faccia le lezioni, che finisca questa cosa. E c'è che ce n'è una a sorso, che è bravo. Come dire, c'è questa che è meglio, che praticamente anche questa è brava, solo quello di sorso che vuole un bellina. Lina Sorso l'ha allenato per l'ubbidienza, tutte queste cose, un amico mio che ha un cane, aspetta come si chiama, adesso non mi viene. Se mi viene te lo dico. Eia, va bene. Non lo so. Akita. Ah, Akita. Si chiama Max. E praticamente lo portano lì a sorso. Pagano, non so se 20 euro a lezione, una cosa del genere. Io non lo so perché praticamente il cane che ha partorito, uno l'abbiamo dato a un bambino che ha un po' di problemi e lo vuole fare anche lui agility dog. Hanno contattato questa e questa tipa che fa agility dog e lo dobbiamo fare con lui ed è per quello che non posso cambiarlo perché lo facciamo assieme. Ah, ho capito. Sì, anche quel ragazzo che c'ha la chita ha problemi, la parla un po' male, dubbica, è un po', diciamo, un po' ritardato, ci vedo. Ho capito. Comunque Gianni, lo sai che oggi stavo smanettando su internet, c'è quello che vende 1000 apparati. 1000? 1000 apparati, 20 euro l'uno in America, te lo spedisce dentro un container. Ma dai. Che apparati sono? Veicolari, mia, aspetta, te li mando. C'è un matto questo, vuole praticamente 15.000 euro e sono 20 euro l'uno. Tutti funzionanti? Sì, tutti funzionanti con la scatola. Ah, deve essere qualche collezionista sicuramente. Ma cosa te ne pare? Ne hai già troppi, ricavi gli apparati. Adesso basta, non ho apparati. Wow, non mi puoi far male. Cosa? Mi piace, mia, guarda, no, vabbè, comunque, come ho detto mi serve qualcosa di più interessante, però ci sono anche stazioni base che può interessare a qualcuno. A me le stazioni base piacciono, ma mi deve piacere l'apparecchio, se no non mi piacciono. Ci sono quelle che non mi piacciono e quelle che mi piacciono, però la stazione base mi piace. Sì, te le ho mandate, guarda, c'è una foto in cui ci sono stati di base, molte sono anche doppioni. Ah, c'è da farsi il negozio. E a sapere che funzionano tutti e poi se non funzionano è un casino, se sono messe male, poi messe tutte così accatastate, già mi fa male vederle così accatastate, lo sai. Non si mettono male andate così, si rovinano. Adesso guardo le altre, aspetta. Lo so, però mi sono fatto i calcoli, c'è 20 euro a radio, fai anche uno che te li sa riparare, è buono. Buono, sì. Se questo qui c'erano la collezione, c'ha le scatole. Già lo credo. Non ci credo, cazzo, quanti ne ha? Già l'ho visto, ma alcuni sono anche molto belli. Secondo me è un maniaco questo. Secondo me è peggio di un radioamatore che mi sa che conosci. Gianni. Diciamo che anche quello che stai dicendo tu. Gianni, c'è il canale cui sei tu, che c'è il fischiante. Rebecca, ci siete? Ai, Gianni. La vecchiaia scatta 9.30, io so che problema non dispolo dentro casa 9.30. E qua, oh fra, se tu disegni ma non mi arreghi sta roba qua, l'ho trovata poco fa, ho cercato e l'ho trovata, ce l'ho qua. Che bagabba mia Lugariella, lo vedi a Lugariello? Lui sì. Che Lugariello? Lugariello, dammi un controllo, sto provando un dipolo dentro, sto provando un dipolo che ho costruito, come sta andando? 9.40 si fa. Una bomboletta quindi, va bene, no? Ah, grande. Senta su che antenna è? Sì. Ho detto per 2 metri di vino, sto tarato, un'ora è stazionaria ciò. No, beh, meglio così. Ma deve essere ascoltato di radio fra. Una bomba, 6.940, radio a bomboletta. E la mia com'è? Va bene, lo abbasso. No, lasciala così, no, non abbassare, non aumentare, lasciala così. Vabbè, andare bene. Ma carino, 9.20 sta arrivando qua. E la radio com'è? Come quella di Luca? Bella è la radio, io la sento bella forte la radio. Ma come quella di Luca, è forte così o di meno? Quella di Luca rimane leggermente più forte. Aspetta che metto le cuffie, perché se no, aspetta, prova. Guarda un attimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luca, parla tu adesso, con muro. 1, 2, 3, prova, attenzione, Franco California, che... Ok, prova tu Natali. Attento, Franco California, Caragava. Attenzione, Franco California, ascolti il doppio room che chiama, cambio. Adesso mi ha rotto le scatole, ho doppio room. Ah? Tu avevi già parlato, ho parlato io. No, volevo sapere se era forte come la tua la radio. Questo è più basso, dovrebbe essere. Boh. Fra, cosa dici tu? Allora, quella di Luca rimane più forte, leggermente più forte della tua. Però è buona anche la tua. A due il Mickey Gay, Natalino! E poi amica mia, aspetta un attimo che mi devo affacciare. 40 sì qua. Franchino! Gianni Show, l'ho detto, com'è la mia? La modulazione! Una bomboletta, va bene. 9.40 sì già. Come ti sto arrivando a te? Sto provando un dipolo. Aspetta che controllo, rimetto gli occhiali. Vai fra! 9.10. Prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9.30 con dipolo! Scherza, va bene allora, dai! Solo che c'è una portante che arriva molto più forte e ti ha coperto prima, capito? A me? Ehi, a tutti copre, non ce n'è uno, la copre a Claudio. Franco! Che? Ciao Riccardino, buonasera, chi è? Buonasera, se mi fai un altro passaggio ti do un rapporto di segnale. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. Dove sei? A casa, Franco? Casa. E dove l'hai messo il dipolo? Sopra il tetto? No, l'ho messo fuori dalla finestra, non lo sto in dittuglio. Tutti positivi, meno male. E la radio va bene, 5. Fai come faceva Rosa Verde, che se lo metteva dentro casa si stendeva anche la roba sopra. Funziona anche all'interno, Lo so, di polo va bene. C'è poi diretto verso questa zona ancora vita. Natalino! Dimmi di qua. Ciao, sei un coccomane. Anche tu. Molto di più. Te giurai, Frank, a coccomane. Elia, l'ha inteso. Mica Riccardino è coccomane veramente. No, copriti. Natalino, lasciamo perdere. Io ho un'idea, Natalino. Tu vedrai che l'idea è quella che penso io, lo stesso, vabbè, ma non me la futti nulla a me, dai, no, non me ne frega niente, non me la fastidi. Forse non hanno capito che stanno ascoltando quelli che devono venire a controllare a me. E li fanno nuovi, vedrai come ti vengono a controllare a me, controllano pure a Eddie. E obbedienti, vieni. Non ci credono loro in Dio. Natalino! Ehi! Ma ti posso chiamare? Sì, sì. E c'ha anche l'eco. L'abbiamo notato. Otto, ciao. E l'abbiamo notato. Hai compreso, si fa sentire pure con l'eco. Ciao Ottore, buonasera, dammi un rapporto, Otto. Allora, a me sei 9.30. Che te, bubu. Cari forte sto arrivando. Guarda adesso invece, 1, 2, 3. 9.20. Andate. Dai. Che non posso... Non posso aumentare più di tanto, capito? Perché non ce la fa la remettatore, se no vi visto, va. Mettine uno da 50. Ore! E lui! Ma vero che Gian Maria ci ha venduto tutto? Penso di sì. Ah, e le cose, il gas non ce l'ha più, venuto ce l'ha. Non lo so. Però ci ha lasciato due apparecchi. Il monogatto e un altro. Già, sì che ce l'ha ancora. Se non so se l'ha venduto Luca, non so se ce l'ha ancora. A proposito, Luca, mi devi mandare il numero di telefono di... Ma non mi metto per il nome. Ciao, mi. Di Claudio? No, di... fanno apprendere che frequenza. Aspetta che prendo il nome. Natalino, pescando sta. Quant'è che lo sta mandando, Luca? Te lo dico. Mi sa 3.50. Come mai così tanto? Qua c'è anche le cocotte. Per quello, perché è modificato. Quello lì era bellino, dai. Io l'ho sentito qualche volta e mi è piaciuto. Infatti ero così per chiedere se me lo vendevo. Questo vecchio io me l'ho venduto lui. Quello c'è anche bene, ma bene veramente. Quale? Questo che c'ha le cocotte. Ma mi sa che quello non lo sta dando, quello lì, quello se lo tiene. Sì, io lo sta vendendo, l'ha messo in vendita Luca, cosa no? Io so di no. E io so di sì perché l'ha messo in vendita. Il numero di chi vuoi, è io. Di Natalino, se te l'ha detto lui. Sì, aspetta, lo passo. Sì, ok. Cava. Comunque già il tuo esce bene, dai, una bella radio anche. Va bene. Sì, andava. Io sto usando il 68, ho capito, modificato. E io adesso attacco il 3009, a vedere come esce, se esce meglio di questo qui. Adesso ho messo l'eco, capito? Ha detto Gianni Doppio Russi, ascolti, questa piccola modulazione dalla zona di Sassari che chiama, cambio? Cambio. Prova? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4. Ha detto Torres, si ascolti questa piccola modulazione, cambio. Cambio. Sì, sì, forte, forte, forte, forte. Com'è l'eco? Va bene così, se no va basso. Cambio. Cambio. A me non dà il fastidio. Se la vuoi lasciare così, lasciala così, se no la passi appena appena. Allora, a me non mi piace l'eco, capito? È meglio così normale, capo. E già va bene questa radio comunque, tu, là. Questo 68 va benissimo. Lo so che ce ne sono parecchi in vendita di quelli lì. Ma questo è tutto modificato, Questo c'ha tutto, Questo è tutto modificato, capito? Ah, così è. Andare. Adesso l'ho messo l'eco, guarda, eh. Adesso te lo faccio sentire con l'eco. Con l'eco. Adentro Antonio, si ascolti questa piccola modulazione, cambio. Non pare che ce n'ero 40 a Zinco, di Calabria. Cava, cava. Guarda lì, giù, come va, adesso lo sto regolando. 1, 2, 3, 4, capo, attento, amico, si ascolti qua dalla città di Sassari, capo. Fatevi come andare nel 45 e ci ammanno a Ghisù. Che regalati così dico. Attento Rugariello, si ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari che chiama, capo. E vabbè, ma è fastidioso comunque a tu. Non mi piace a me, capito? Perché dà fastidio. A me magari fastidio non ma dà fastidio anche ad altre persone. Preferisco tenere la radio così com'è, capito? E la voce mia è meglio dell'eco. Con l'eco non si capisce niente a volte, capito? Tutto lì. Cava cava. Sì, se va bene così, ti va bene. Aspetta che provo a fare un passaggio. Aspetta, Guarda adesso il segnale com'è, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come mai? Te sei andato da 9.30 sei sceso a 9.20. Guarda adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, non ti sei buttato bannuda. 9.30 sempre. Hola. Marco, guarda se questo qua esce meglio. Se esce meglio del Galaxy. Ma c'è un fischio sotto già, sta innescando. Attenzione, binario 45. C'era un fischio. Arroce, attenzione, Franco California, se tu ascolti Luca qua, grande grande. Dalla città di Sassari che chiama, cambio, cambio. Non me l'ha accorto, c'è proprio apparati accesi, per quello fischiato. Positivo da Farroci, proprio California, ti ascolto molto chiaro qua, grande. Secondo te va meglio o peggio del Galaxy questo? Ma diciamo che con le modulazioni sono belle tutte e due, capito già? Capito già. Cavaga, questo qua è 3.900 Superstar. No, va bene, una bella modulazione. Però a me mi servono benissimo. La radio è bella pulita di uso, tranquillamente. Va bene, veramente. Se no non si sente bene, c'è una ricezione questo Superstar che è allucinante. Qua io ho un Intec, non so se lo conosci, 34S, no, non prende il culto da nessuna parte quella parte, solo che non c'è l'FM, va a Napoli. E cosa te ne vai? Intanto non entra mai nessuno in FM, tranne qualche volta per fare qualche prova, ma chi c'entra qua in FM? Lo stavo prendendo 35 euro, nuovo, ancora nella scatola, sono andato di meno, anche se 35 euro, ma con un microfono, compare. Va. Già lo so. Sì che lo conosco, l'ho anche avuto, rimane compatto, rimane. L'avevo da Tarlucca uno io, così, poi... È piccolino lì, è piccolo piccolo un apparecchio, però c'è 5 watt da questo apparecchio. Da 5 watt, capito? Però puoi anche modificare dentro. Se li sbocchi la LC va ancora meglio del radio, ma io non lo tocco, è nuovo nuovo, ragazzi. Io non volevo mettere in macchina, ma arrivato a questo punto non ne metto più, non metto più niente. Ma cosa te ne fai già in macchina? Lascia perdere, non casino. Devi prendere l'alimentazione dalla batteria, non lo puoi mettere, non lo puoi prendere dall'accendino perché ti causa problemi alla centralina, è un casino, per portare la batteria. Faceva tru tru tru tru tru tru, mi dicevo a Luca, l'abbiamo provato insieme, e fa un rumore strano, come se non ce la facesse, no. Ho cambiato idea, fra, poi io ho chiesto l'antenna a una persona, non me l'ha voluta dare, quindi ci rinuncio. Ah, quale antenna? Ascolta, io ne ho una antenna, non ce l'ho qua, devo cercarla giù in campagna, c'ho una bassa marca, sì, adesso non so se la mia... Una Zodiac che ho di antenna, capito? Di quelle piccole. A me mi piace la frustanera, già lo sa. Quell'antenna spara forte, non ce n'è. È piccolina però. Spara bene, capito? Io ho la frustanera, quella lunga. No, quella che ho io è quella piccolina. Quella piccola che c'ha la carica al centro, capito? Mi sembra che c'ho anche quella piccolina, c'ho la frustanera. Ma quella caricata a to, quella che c'ha la carica tutta a to? Mi pare che sia chissà, che è molleggiata, che si tira lo stilo per regolare le stazionarie. E allo stub shop? Mi pare che ce l'ho io quella. Vabbè, la regala, me la scatto, non te ne fai nulla. No, già sei due in naggio di quelle lunghe. No, se c'è quella lunga, quella, se me la vendi quella lunga la metto nel camper, quella lunga. Ah, fermo, che ci sono io prima. Tu che devi da con la moneta, sennò a un docco, vedi? No, glielo ho chiesto io prima, fai a bravo. Ma in me non la sai quella lunga. Aspetta però, guardo se c'ho l'attacco anche di sotto, perché mi sembra che non ci abbiamo tutti e due l'attacco. E allora attacca al Didi. Vabbè, non c'è problema, l'attacco ce l'ho io, ne ho due attacchi, capito? Hai capito? E quindi non te ne vai nulla, ami. E quindi già sei fritto, perché io ho le due basette di quelle lì, capito? Vabbè, tu pidati quella, a me mi dai quella che c'è tu, dai, facciamo così. Ok, facciamo così, dai, tu ti prendi quella che è lunga, di Tore, e io mi prendo quella piccola, perché a te ti piacciono lunghe. D'acciaio, è una Sigma, poi c'è anche un'altra che ci ho messo lo stilo corto. Che cazzo, la collezione va, la M che antenna c'hai, la Mini Turbo. Hai capito Gianni? Cosa? Aspetta, ma è quella che c'ha di Franco, quella piccola, li ho regalata io. E se la tocca la roba l'abbiamo messa, le stacco le orecchie. Ciao, ma infatti Claudio ha detto che non gliela do quell'antenna. L'ho detto, questa l'ho regalata a Claudio. Tutto lì, come ci sta arrivando Claudio? Ho provato a piazzare un dipolo nello stenditoio. Se non c'è portante mi stai arrivando col baracchino, io sono col baracchino, sei 9 più 10, ma già va bene. Ah, questo dipolo fatto allucinante, un dipolo fatto alla veloce, mica. 9-10, sì, col K sicuramente sei più alto, già va bene. Andar bene a me. A proposito, stamattina sono andato all'abrico e ho preso quei radiali in alluminio. Ma se ti ho detto che ce li avevo io, cosa li hai presi a fare? Te l'avrei dati io, ne ho 8 di quei radiali, già pronti, già misurati, con i tappi, tutto pronto. Va bene, dai, proseguite, ciao, Tore Squalo. E allora Cla, dai, metto quelli là, quelli in fibra di vetro, dai, questi qua lì, non so se ti servono a te. No, ce li ho, c'ho quelli in fibra e anche quelli in alluminio, capito? Ma adesso non faccio più niente, non ho tanto. Fa un casino che lascia perdere. Ciao, Torre Squa. Ciao, Claudio. Sei comprigli, c'ho neo antenne. Io so che verrai antenne tu, già lo so, già lo so. Gianni, ti sei fatto fregare, ti sei fatto fregare, bastava farti lo stiro e poi già glielo fregavi a Franco. Lo sai quante ne ha di quegli attacchi lì? Ui, ui, ui. La metto, però metterla adesso quanto ne vale la pena? No, non ne vale proprio niente, non ne vale niente, io c'avevo un progetto, non lo faccio più, cioè non mi va, basta, boh, te l'ho già spiegato, non c'è motivazione per fare altro, va bene così, dai. Ok, sono andato a salutarvi, fra 9 più 20 sei con il K e 9 10 col baracchino, ok? K, crack, contraccambio il tuo rapporto, 9:40 stai arrivando qua, dai, con questo dipolo che ho costruito, la radio sempre la solita. Sì, io ho tutta un'altra iniziativa, già te l'ho detto in verticale cosa sto facendo, quindi l'abbandonerò la 27. Ah, io me rimango al mio posto, entrerò il meno possibile. Ho detto quello che pensavo, si è avverato. Vabbè Gianni, continua a parlare, dai, ci sentiamo, ciao. Io non demordo fino all'ultimo. Ciao Claudio, ci sentiamo. Avanti Natale. Ero al telefono, stavo facendo una telefonata e quindi non potevo riprendere. Va bene. Allora, ciao Claudio, quando vieni a pucciarmi chissà cosa, così era manco bruvemo, se no c'è un altro brugetto, io ti navaraggio a Fabidà, di basso. Ciao Natalino, non so se mi ascolti, c'è importante, ciao. Ciao, ciao. E anche io sto chiudendo. Natalino, adesso vado un po', dai, saluto tutti. Ce la riascolto per le prossimine. Ciao Claudio. Ciao Natalino, ciao Gianni e tutti gli eventuali amici che sono in ascolto. Per me QRT ce la riascolta alle prossime. Ciao, ciao. Sì, Natalino, fammi una bassa, dai, ok. Appa. Natalino. Oh, dimmi to. Ce l'ho me, me l'ha mandato. E cosa? Il numero. Poi quella cosa là non sono riuscito a trovarla, in nessun coso. Ho provato a prendere un altro pennino, una sigla di un pennino, e no, è tutto diverso. Figurati, te l'ho detto to che non ci sono riuscito, non sono neanche uno sprovveduto, no. Se ti dico che non c'è, non c'è. L'ho comprata diversi anni fa quella lì, forse conviene comprarne un'altra, non lo so. Scusa che devo fare una telefonata a Franco a vedere cosa mi deve dire. Vabbè, vai, vai. Riccardino, ci sei? Riccardo non risponde, vabbè. Cosa vuoi? Quella corta, quella lunga, quella bella che da Vea? Quella che è pompa di più. No, guarda, ne dovrei avere tre, ne dovrei avere, di quelle antenne lì. Ma se non va l'attacco di sotto, cosa me ne importa? Non è vero di attacco a parte così? Non lo so, non lo so, può darsi pure che siano attaccati, non lo so, sono messe da parte, Allora, l'attacco a galletta ce l'ha. Eia, sono a galletta, sono. L'unica cosa che si può fare è comprare un'antenna della Lafayette che c'è l'attacco a galletta così, lo stesso, però la paghi sulle 45 euro, tanto non va di là. No, non fa, dai. L'ho ordinata la mini turbo da coso, la Fusaro, è ancora rigamita, ammetto che mi chiamava perché se il numero di telefono gliel'ho dato, non si vede, non si sente, non è arrivata, già sarà più di un mese che gliel'ho chiesto. Ma lascia perdere, che coso ne? Che quelle lunghe, cata, secondo come la metti, gata, di vazio gugura cappotta. E quello la volevo picchiare. piccola, io stavo cercando la Mini Turbo oppure la PLC Minox, ce l'hai presente, quella con la molla al centro, che sono già preparati. Ah, t'ho capito, aspetta, ma quella costa però? Chi sa, di quel cambio di 60-70 euro? Ma pompano però, un segnale in meno di quella grande, figurati, pompano bene. Io l'ho avuta, me l'ho autocostruita, ho guardato le misure che c'erano e me l'ho fatta con uno stilo vecchio che ci avevo e mi ho fatto l'antenna, la ragazza bombava. Io l'ho fatta corta, l'ho fatta del coso, ce l'ho corta, ce l'ho, e di stazionarie c'ha uno e uno, c'ha di stazionarie, l'ho provata e funziona benissimo. Anche io me l'ho fatta, te lo sto dicendo, basta che azzecchi i giri della carica, io l'ho fatta e ti sto dicendo, al portatore ci arrivavo 9,95, da quando partivo da negozio a Claudio ci arrivavo Santiago 9 con quell'antenna, solo in mezzo ai palati funziona male, ma su strada aperta, lui. Ma io ne ho tolto lo stilo lungo che c'era e ci ho messo quello da 50 centimetri, ci ho messo. Io l'ho tagliato, ne avevo uno che non serviva più perché praticamente taglia, quelle stazionali le avevo fatte alzare invece che e dopo non serviva più, quindi l'ho fatta a misura, ho fatto la PLC Minox e andava benissimo. E allora cosa te ne fai di un'altra antenna? Ci metti quella? Non ce l'ho più, l'avevo data quella lì, ti parlo già di un po' di tempo fa, quando lavoravo ancora. Ce ne va portato ancora, ti sto dicendo, mi sentivano tutti a sasso. Certo, pensa un po' Gu. Purtroppo io mi sono due lunghe e una corta, se no. Lì vicino si può intraccare, 60 e passa euro costano quelle piccole, le altre mi pare 80, una cosa del genere. Non si può comprare nulla da GPC, è un mercato. Purtroppo l'unica cosa che se le trovi in internet e ti costano pure di meno. Sì, ma poi se ti fai i calcoli che devi pagare le spedizioni ti verrà la stessa cosa e qua ce li hai subito, invece li devi aspettare. Chi si è rubato? Chi c'è un bel caro, Non se ne può più manco di comprare cosa da chi su? Ah, farmacia a Bari Trembi, mi ha fatto pagare uno spilotto per il microfono, 2,50 euro, un microfono a 4 punte, non è nemmeno di quello, 2,50 euro, ma lo già che ha chiuso. Magari lo coso in plastica, buro. Sì, quello per lo spilotto per il microfono, non quello per l'antenna, quello per il microfono, con la 4 punte. Sì, ho capito, è nero, ho capito, sì. Ehi, chiatta, e Fusaro non ne aveva, e Fusaro la matessi cosa, 2,50 lo stesso, diceva di bagare. E io ero da quelle parti, ero su a Banco, a San Paolo, che sono andato a farmi finalmente ripristinare la carta, e cazzo, sono buttato 3 busi per quella carta. Mi dicevano che la potevo usare lo stesso, che avevano prorogato la scadenza. Andavo al supermercato e non me la prendevo, andavo al banco ma te potevo ritirare il su, da te l'immagini. Vuol dire che da loro non passava. Ma mica non sia che voleva pulita a me, perché ogni tanto me lo fa a me. No, l'ho pulita con lo straccetto e cose. Una volta me l'aveva fatta anche nel banco, ma a me c'avevo il glasses in macchina, gli ho passato il glasses e poi l'ho pulita con uno straccio morbido, cazzo, l'ho passata subito me l'ha bigliata. Infatti, che fai così fazzi? Ma andava e anda, da. Così ti comprare, non ci sono problemi, dai, tutta la cosa è bella qua. Oh già. Dimmi Natali. Allora sai che mi stanno rendendo la vita difficile quelli là. Adesso lunedì mi sale il tecnico sul tetto e mi toglie le antenne mie TV. Le antenne tue TV? E allora? E perché? Perché sono piazzate in casa sua, c'ha ragione, capito? E quindi me le stacca. e mi sta rendendo la vita difficile. Se ne stacca, però che non si azzardi a toccare, perché le antenne sono tue, devi andare tu e toglierle tu e mettertele nel palco.